Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. La notizia del giorno, diciamo, è una sola, ma noi poi dovremo scomporla in tante notizie che riguardano l'andamento dell'economia italiana e internazionale. La notizia è una sola: 160 miliardi di euro è la cifra complessiva tra recupero dell'evasione fiscale e risparmi eventuali derivanti dalla sconfitta delle procedure corruttive di sistema che si annidano nella pubblica amministrazione. È la cifra, 160 miliardi, che ci farebbe diventare un paese prospero, ma prospero sul serio, insomma, una società prospera, non gravata da debiti, un paese, un bilancio dello Stato capace di fare qualunque cosa per stimolare la ripresa dell'economia. Eppure questi 160 miliardi mancano all'appuntamento, lo dice la Corte dei Conti, che sostiene che qui non si tratta di, per la parte che riguarda la corruzione, di singoli episodi, si tratta proprio di una questione di sistema, cioè le leggi sono fatte in modo tale, gli uffici, a partire dagli uffici dirigenziali della pubblica amministrazione, infatti è come un messaggio mandato all'attivissimo e coraggioso ministro Brunetta, sono fatti in modo tale per cui, insomma, quei 60 miliardi partono, perché la corruzione è, diciamo, entro certi limiti inevitabile, non è solo illegalità, è proprio, anzi, espressione della specifica legalità, naturalmente da azzeccagarbugli, che non solo la consente ma la promuove. Insomma, un referto veramente grave da parte della Corte di Cassazione, totale 60 miliardi. E poi ci sono 100 miliardi di evasione fiscale. Il costo di essere un po' corrotti come siamo e un po' troppo furbi come anche siamo. E questa è la vera notizia, non tabloid, non scandalistica, la vera notizia di sostanza che riguarda un paese zoppicante che arranca. Poi ci sono notizie altrettanto importanti come il decretone estivo del governo. Provano a fare qualcosa, ed è giusto che ci provino, per sostenere le famiglie, per sostenere le imprese, agendo sulla leva fiscale con una manovra non ingentissima, si parla di alcuni miliardi di euro, ma che però potrebbe dare un piccolo tocco, diciamo, a quei germogli. Mi pare che germogli fosse la formula ufficiale di Confindustria, dell'ufficio studi di Confindustria, di ripresa, che in qualche modo si sentono appunto così fiorire nell'aria. Naturalmente noi studieremo nel corso della trasmissione, studieremo si fa per dire, perché la nostra è una trasmissione di chiacchiere amabili, ma che cercano anche di chiarire le cose, studieremo un po' con persone molto esperte, dal decretone in poi, che cosa effettivamente il governo può fare per l'economia. C'è questa questione, per esempio, delle pensioni, anche questa è una notizia. Bruxelles chiede, addirittura aprendo una procedura di infrazione, che l'Italia faccia quello che gli altri stanno cercando di fare, cioè le donne devono andare in pensione alla stessa età degli uomini, le femmine alla stessa età dei maschi, per ragioni di omologazione o parificazione delle opportunità sociali e anche per ragioni economiche. Insomma, ce n'è di cose da discutere con Francesco Giavazzi, che, come sapete, insegna alla Bocconi di Milano e al MIT di Boston, è editorialista del Corriere della Sera e è autore di un libro che qualche mese fa ha abbastanza messo a rumore, direi, la comunità economica italiana e non solo italiana, perché era un libro in cui coraggiosamente si rivendicava la giustezza di certe grandi idee degli ultimi decenni sul funzionamento del mercato e dell'economia, e lo si faceva nel momento in cui il mercato sembrava devastato da una crisi inarrestabile, modello anni 30, il 29 era la data più citata, che avrebbe portato via tutto e restaurato una forma di socialismo finanziario internazionale. Quindi avremo Francesco Giavazzi, che è il nostro gradito ospite, Federico Rampini, editorialista di Repubblica e corrispondente di quel giornale dalla Cina, ma un po' dappertutto, dall'Oriente, dall'Occidente. È autore, Rampini, di Le 10 cose che non saranno più le stesse. un libro della Biblioteca di Repubblica e l'Espresso che riguarda le 10 cose che non saranno più le stesse, evidentemente la crisi e gli esiti post-crisi. E avremo Oscar Giannino, giornalista economico, grande provocatore mediatico, star della TV e ovviamente anche della radio, che da lunedì mi sostituisce a questo microfono e conduce la trasmissione 9 in punto, la versione di Oscar. E quindi, insomma, un gran parterre. Per ora, e lo facciamo con affetto e dicendole grazie per averci tenuto compagnia tutti questi mesi, la linea a Deborah Rosciani per l'apertura della borsa. Buongiorno, grazie molte. Allora, questa mattina abbiamo una buona partenza per l'Europa, l'Europa che è reduce però da una nuova giornata negativa. Ieri l'Europa è stata frenata dalle previsioni del Fondo Monetario Internazionale sulle perdite delle banche irlandesi. Stamattina invece si parte bene perché c'è stata anche una chiusura piuttosto positiva per Wall Street, dove i listini sono stati spinti dai titoli delle costruzioni e delle vendite al dettaglio, e poi c'è stato anche questo appoggio che è stato riconfermato da parte del Congresso americano al presidente della Banca Centrale Americana Bernanke. Pertanto ieri bene Wall Street e stamattina di nuovo in partenza con un rialzo di un punto tutta l'Europa, Piazza Affari compresa, più 1,07%. Per la verità qualche minuto fa la partenza era stata ancora migliore, rialzi di quasi un punto e mezzo, adesso c'è una leggera frenata. A Milano gli operatori stamattina stanno premiando Saipem, più 2,75%, Tenaris più 2,40%, Pirelli più 2,40%, più 2 punti anche per il Banco Popolare, che presto formalizza appunto la richiesta dei Tremonti Bond. È già stata fatta per la verità questa formalizzazione, ma mancano poche settimane, ha detto il numero uno Saviotti, all'emissione dei bond di Stato per quasi 1,5 miliardi di euro. Il segno meno è solo su Enel in questo momento, che sta perdendo 0,5 punto percentuale, mentre l'euro sul dollaro è di nuovo risalito sopra la soglia di 1,40. È risalito anche il petrolio a $70.50. Per ora è tutto, Giuliano, in bocca al lupo per tutto, a presto. Grazie a Deborah. La prima domanda è un po' petulante, se volete, querula, ma necessaria nel giornalismo. Perché ogni volta che parla il governatore della Banca d'Italia i titoli sono duello Draghi-Tremonti, e cioè c'è sempre un controcanto del ministro dell'economia? Qual è la radice? Perché naturalmente io non criminalizzo Tremonti, Tremonti è l'autorità politica e naturalmente ha tutta l'autorevolezza per dire quello che dice, però vorrei capire qual è la radice del duello, perché c'è questo duello sempre tra Draghi e Tremonti? Sono due ricette diverse, sono due modi diversi di uscire dalla crisi. Draghi è, giusto o sbagliato che sia, un critico feroce della politica economica del governo, non so, non riesco a vederci chiaro, forse il professor Giavazzi lo sa meglio di me. Buongiorno. Grazie per l'invito. Grazie. Ma io credo che dietro le critiche e i rimbrotti frequenti reciproci ci sia una visione molto diversa di come condurre la politica economica, in particolare la politica di finanza pubblica in questo anno. Quello che il Ministro dell'Economia sta facendo, a mio parere, questo secondo me è quello che gli rimprovo il governatore, è di scivolare pian piano, cioè di allargare i cordoni della borsa mese dopo mese, perché la disoccupazione aumenta e quindi bisogna far fronte estendendo la cassa integrazione, concedendo i sussidi ai precari, all'aumento della disoccupazione, senza però fare niente di strutturale, cioè di guardia a lungo periodo. Credo che invece il governatore vorrebbe che ci fosse un appiglio più solido sul lungo periodo. Se posso usare un'immagine alpinistica, quando si va in montagna, se uno ha un chiodo molto fisso e ben messo nella roccia sopra, può anche permettersi qualche appiglio un po' scivoloso e qualche rischio in basso. Se invece non ha questo chiodo sopra, deve stare attentissimo. E quel chiodo sarebbero le riforme, insomma, le riforme, riforme delle pensioni, cioè, qualcosa che agganci. Però no, l'unica cosa che non capisco è questo, forse ci può aiutare in questo Rampini. Tremonti non è che ha la fama dello spendaccione, perché in genere la dialettica Banca d'Italia, ministro dell'economia, è questa, no? Uno fa lo spendaccione, l'altro dice: ma ragazzi, state compromettendo i conti dello Stato. Tremonti, anzi, in Europa gli riconoscono il fatto di avere afferrato nella crisi e prima della crisi, con il famoso DPF dell'altro anno, con la riforma della finanziaria, i conti dello Stato, e di averli tenuti tutto sommato sotto controllo, anche se naturalmente no, gli si dice che Tremonti è l'unico che non sostanzialmente, diciamo, che non così, insomma, che non fa una grossa azione anticiclica, allora come può essere accusato contemporaneamente invece di non avere attenzione per gli equilibri finanziari pubblici? Ma io per la verità queste cose le vedo, le osservo da molto lontano, in questo momento da Pechino per la precisione. Diciamo che ho l'impressione che ci siano anche delle incompatibilità caratteriali, forse delle rivalità, forse non giova il fatto che il nome di Draghi ogni tanto sia affiorato in Italia come di un possibile capo di un esecutivo tecnico qualora debba cadere il governo Berlusconi. Tutto questo può provocare dei nervosismi, delle incompatibilità personali. L'impressione è anche che a Tremonti non piace l'uso che viene fatto delle cifre di Banca Italia quando queste cifre sono negative, quindi danno... Sì, questo è il caso naturalmente. La faccenda vera è che Draghi poi ha detto il PIL calerà del 5% e Tremonti ha risposto gli economisti e chi si occupa di finanza pubblica è meglio che siano zitti fino a settembre, che è questa cosa molto dura che fa Tremonti, si lete economisti, insomma questa cosa piuttosto, sì, piuttosto provocatoria, un po' intollerante. Draghi ha detto il 5% in meno è una roba seria e tutti questo lo capiamo, bisogna rilanciare i consumi e proteggere il lavoro e fare le riforme di struttura, prima fra tutte quelle delle pensioni, e ieri c'era stato il monito e la procedura di infrazione di Bruxelles. Giannino, ce l'abbiamo in collegamento? Ecco. Sì, sì. Oscar, tanti auguri da lunedì. Giuliano, grazie a te. È uno spazio magnifico, non ci si deve svegliare neanche tanto tardi, ci si prepara abbastanza rapidamente, questa è la mia esperienza. E poi la gente è contenta di venirci e di fare quattro chiacchiere. Allora, Oscar, questa roba del duello, come la vedi tu? Ma io vedo che ci sono tre elementi. Il primo è che quando le cose vanno male in economia c'è una dialettica che tende a essere forte tra chi rappresenta la politica, cioè chi interpreta di avere un suffragio dato dagli elettori, e i poteri tecnici, perché i politici quando le cose vanno male iniziano a essere un po' diffidenti di chi esercita un potere che non risponde agli elettori. Secondo, io non credo affatto che Draghi abbia nessun tipo di ambizione politica, conoscendo un po', anzi abbastanza bene, mi fa sorridere questo, ma il problema è che intorno a Tremonti invece, e questa è una caratteristica di questo governo, non era così nei 5 anni fa, c'è qualcuno, secondo me, che da sempre dice a Tremonti, forse se mettessimo un governatore più amico del governo sarebbe meglio, quindi c'è questa tendenza, c'è vicino a Tremonti. Poi la terza cosa secondo me è che la banca esercita rispetto ad alcune cose di questo governo, tipo il federalismo. Ah, poi bisogna dire appunto che per la prima volta è un mandato a termine quello del governatore, questo rende ovviamente un po' più instabile anche, no? Direi di sì. E poi ripeto, ci sono alcuni provvedimenti fondamentali dell'intero governo, il federalismo, cioè avviato da questo governo, che riscrive in teoria tutti i conti centrali e periferici dello Stato. La Banca d'Italia inevitabilmente ha gli strumenti per fare molto, questo si vede in Parlamento, nelle audizioni e così via, e questo al Ministro piace non troppo, perché vorrebbe essere più padrone di tutto l'armamentario di numeri, perché quella è la riforma di questo governo, lui la considera la sua riforma. Certo. Persino il Ministro Calderoli, vi devo dire, porta molto la Banca d'Italia in Parlamento su questo, il Ministro ogni volta gli dice: Calderoli, per favore, insomma, cerchiamo noi di farlo, non di farcelo dettare dalla banca. Bene, il decreto d'estate, professor Giavazzi. Qui si parla di provvedimenti che insomma non sono rivoluzionari, non sono di riforma di struttura, però che potrebbero essere utili. C'è tutto il pacchetto del ministro del welfare Sacconi, che è uno molto concreto. C'è il rientro anticipato in fabbrica dei dipendenti in cassa integrazione allo scopo di fare corsi di formazione, un intervento sul mercato del lavoro che potrebbe produrre qualche risultato. La dote previdenziale di cui può beneficiare, cito da Roberto Petrini, Repubblica, un'azienda che assume un cassa integrato dalla nuova banca dati dell'INPS, perché l'INPS oggi è in grado di offrire, diciamo, questa lista potenziale di nuovi assunti. La terza riguarda il licenziamento che un lavoratore in cassa integrazione, in mobilità e forse con assegno di disoccupazione può ottenere se si metta in proprio. Che cosa vuol dire? Che uno, sì, insomma, mette su un business, cerca di sfidare la l'economia, secondo i suoi stessi principi, va nel mercato, perde un posto, beh, ha un aiuto, nel senso che questo rende più fluido il mercato del lavoro e quindi viene aiutato fino a 12 mesi dell'assegno, può capitalizzare 12 mesi dell'assegno salariale. E poi ci sono molte altre cose, ma quelle diciamo più importanti sono la Tremonti Ter, detassare gli utili delle imprese che vengano investiti in nuovi macchinari, velocizzare i pagamenti della pubblica amministrazione, che sono notoriamente uno scandalo denunciato spesso da Confindustria, Confcommercio, norme sugli ammortamenti e un intervento sulle società energetiche per calmierare le bollette delle imprese e un colpo alle banche, che sono anche loro, come la Banca d'Italia, spesso nel mirino di Tremonti. Dice, se fate le commissioni di massimo scoperto mascherate, diciamo andando contro lo spirito del tempo, noi ve le annulliamo. Insomma, è un decretone estivo. Come lo giudica, professor Giavazzi? Secondo me sono aggiustamenti, adesso forse sarò un po' cattivo, sono aggiustamenti al margine e si perde... Che lei sia cattivo non è una notizia, lei mi ha promesso notizie stamattina. Si perde un'occasione, che cioè, abbiamo di fronte la crisi più grave dagli anni 30 ad oggi, secondo me non è la fine del capitalismo, ma è la fine più grave. Queste sono occasioni per avere coraggio e fare delle cose che guardano un po' avanti. Allora, alcuni istituti del mercato del lavoro, in primis la cassa integrazione, sono istituti che non funzionano per due motivi. Primo, perché danno al lavoratore che è in cassa integrazione spesso l'illusione che il posto continua ad esserci, quando invece purtroppo arriverati a ottobre il posto non ci sarà più. Però finché tu hai l'illusione che il posto ci sia, non ti dai tanto da fare per cercarne un altro, perché bene o male pensi di continuare ad averlo. E perché abbiamo la cassa integrazione? Perché non abbiamo il coraggio di fare quello che si fa in tutto il mondo civile, cioè avere un sistema moderno di sussidi di disoccupazione che vanno a tutti nel momento in cui perdono il posto, il posto di lavoro. E quindi continuare a tenere in piedi la... E poi il secondo motivo è che la cassa non copre tutti, la cassa copre alcuni fortunati, adesso un po' di più perché è stata estesa, che sono coperti da questo istituto, ma non copre tutti. Quindi quello che mi fa rabbia è che non si usi questa occasione per una grande riforma. Perché questo? Perché se il governo mettesse sul tavolo una grande riforma sui disoccupazione, potrebbe dire al sindacato: che cosa mi dà in cambio? In cambio riscriviamo lo statuto dei lavoratori, che è una legge fatta dal ministro Brodolini nel 69, che forse andava bene nel 69, certo non va bene adesso. Queste sono le cose coraggiose che si fanno adesso, aggiustare al meglio, per carità, sono tutte cose che servono, ma quando noi usciremo dalla crisi, usciremo deboli come ci siamo entrati. Ecco, qui c'è la cosa veramente dolente, perché io la sento molto, insomma, la previsione più tremenda che ho letto è quella fatta da Visco e da Bersani, dalla loro società. Dice, dunque, nel 2010 sì, ci potrebbe essere potremmo ripartire con lo 0,2%. Cioè, il vero rischio, insomma, che il PIL dovesse crollare in armonia, diciamo così, con altre situazioni in Europa, nel mondo, eccetera, era abbastanza scontato. Ma che poi magari ci si trovi, cosa che può veramente succedere nel 2010-2011, con un'Italia che riparte lentissima, in un'Europa che riparte molto lenta, mentre insomma l'Asia non ne parliamo, l'Asia non deve nemmeno ripartire perché continua a crescere, ma magari gli Stati Uniti ripartono più velocemente e più robustamente col 2-3%, beh, questo sarebbe veramente disperante. Rampini, è questa la prospettiva verso la quale andiamo? Sì, purtroppo è questa e siamo costretti a proiettarla perfino su tempi più lunghi, cioè non solo 2010 o 2011, ma dobbiamo mettere in conto il rischio di una sindrome giapponese. Con questo intendo lo scenario abbastanza lugubre che ha vissuto il Giappone in 10 anni, dopo la sua crisi, quella del 1989-90, che fu una specie di piccola, su scala ridotta, una specie di prova generale della nostra grande crisi mondiale, perché aveva cause analoghe, c'era la bolla speculativa finanziaria, le banche malate, la bolla immobiliare, insomma era una cosa molto simile che andrebbe studiata bene. E dopodiché il Giappone, quando la crisi è finita, ha avuto un decennio piatto, di crescita zero, e questo è un rischio molto molto concreto per tutta l'Europa, per una serie di ragioni che vanno dal fatto che non abbiamo motori di crescita al nostro interno, siamo dipendenti dalle esportazioni, ma in una fase in cui le altre aree del mondo non necessariamente vogliono assorbire le nostre esportazioni, viene meno tra l'altro la domanda dinamica e vorace del consumatore americano che era stato il motore della crescita dell'ultimo decennio, e abbiamo la zavorra di debiti pubblici molto alti che sono addirittura aumentati nel corso della crisi e per effetto della crisi. Quindi tutto questo induce a pensare che sia realistico uno scenario di lungo, lunghissimo periodo senza crescita. Bene, grazie. Bene, il professor Giavazzi ha detto prima, allora, ma perché invece di ricorrere a mezzi anche utili ma piccoli, che non determinano uno scossone nella struttura dell'economia italiana, per esempio sulla questione del mercato del lavoro, non si fa una vera riforma e si crea un sistema di ammortizzatori sociali moderno, vantaggioso per chi lavora, capace di distinguere tra la protezione del lavoratore, che è sacrosanta, e la protezione dei posti di lavoro improduttivi, e negoziando col sindacato una riforma dello Statuto dei lavoratori. E questa è appunto una riforma, no? Che implica naturalmente la disponibilità di mettersi un po' in discussione del governo, cioè la paura di lotte sociali, di un dissenso sociale, però anche c'è un do ut des, un negoziato. Le riforme poi si fanno così, non si vede in quale altro modo, avendo anche una grossa maggioranza parlamentare. L'altra è quella delle pensioni, che l'Europa chiede. Insomma, in Europa c'è questo problema della parificazione delle condizioni previdenziali tra uomo e donna. Come la vedrebbe lei questa riforma, diciamo, sulla, professor Giavazzi, sull'anzianità pensionistica uomo-donna? Come la vedrebbe concretamente prospettarsi da parte di un governo che decidesse di prendere la sua linea e non invece questa linea più prudente, insomma, che ha anche le sue ragioni, ma che... Ma sulla parificazione uomo-donna io credo che ci siano molte donne che andando in pensione presto vanno in pensione con delle pensioni misere perché hanno pochi contributi e credo sarebbero contenti di lavorare qualche anno in più, quindi su questo mi sembra che ci sarebbe anche consenso sociale. Ovviamente bisogna sempre fare delle distinzioni, ci sono dei mestieri in cui invece c'è più, come si dice, logoramento, e quindi le persone devono avere il diritto di andare in pensione prima. In realtà bisognerebbe andare in un sistema in cui uno va in pensione quando vuole sulla base dei contributi che ha pagato. Se vuole andare in pensione prima sa che perde un po' di contributi, magari perché ha accumulato ricchezza o l'ha ereditata, e invece chi vuole continuare a lavorare lo fa. Ma il problema di fondo è che noi ormai abbiamo una vita media che fortunatamente, o fortunatamente non lo so nel mio caso, ma insomma arriva fino a ben oltre gli 80 anni. Finiamo di lavorare intorno ai 60. Berlusconi però, guardi, alla cosa di Farmindustria ha promesso i 100 a breve, ha detto adesso benissimo. Chiamo il professor Fazio, che è il vice ministro della salute, e ve lo spiega lui, 100. Uno dei motivi per cui questo paese cresce Fantastico. Poco, che è il nostro problema di fondo, è che lavoriamo poco perché lavoriamo 60 anni, viviamo 80, quindi abbiamo un lungo periodo dopo la fine dell'età lavorativa in cui siamo sostanzialmente sulle spalle di quelli che lavorano. Poi rispetto ad altri paesi, quando lavoriamo, almeno ufficialmente, lavoriamo anche poche ore, quindi questo è uno dei problemi da risolvere. Non si può finire di lavorare a 60 anni, andava bene quando vivevi fino a 70, adesso che vivi fino a 85 chiaramente non va più bene. E qualche problema ne nasce, certo. Sentiamo Maria Paola da Milano, che ancora sul caso Draghi voleva dire qualcosa. Maria Paola. Buongiorno a tutti. Dunque, io negli anni 70 facevo la situazione generale di una banca e avevo Guido Carli, al che la dice lunga, tra Guido Carli e quelli che sono venuti dopo. Comunque io ho una mia idea, e cioè Tremonti e Draghi non possono andare d'accordo, perché Draghi riceve ordini dagli grandi istituti, è normale, non è più il padrone della Banca d'Italia come era Guido Carli. Perciò insomma io crederò sempre a Tremonti. Poi bene, questo è un atto di fede. Mi è piaciuto molto quello che voi state dicendo, mi ricordano sì. Tante le circolari della Banca d'Italia, avreste dovuto. Tra l'avreste dovuto e poter fare, ne passa. Grazie, bene. Buona giornata. Grazie a lei, Maria Paola. Un caso di tremontismo fideistico, ma assolutamente encomiabile. Pasquale da Roma. Buongiorno, senta, io stavo sentendo appunto le vostre riflessioni, ma io volevo capire una cosa. Adesso ho visto l'ultimo pacchetto di cui parlava lei, dottor Ferrara, ma volevo capire, sostegno anche a chi comunque è una grossa fetta di lavoratori che sono i precari, anche questa volta, chi ha contratti atipici, non, almeno non mi sembra di aver letto sui giornali che ci sia qualcosa anche... No, c'è un'estensione dei contratti di solidarietà, non ho capito bene dall'articolo di Petrini su Repubblica, dal 60% all'80%. Esatto. E poi Io credo che provvedimenti diciamo ponte sul precariato ce ne saranno nel decreto estivo, però non posso garantirlo, stanno discutendo adesso. No, certo, però io una mia curiosità, perché io l'ho provato più che altro sulla mia pelle, perché si parla di una tantum per chi ha i contratti a progetto. Ecco, io sono stato per un anno con un contratto a progetto, dopodiché ho fatto la domanda per rientrare in questa una tantum, un assegno di disoccupazione, insomma una sorta di... ma non mi è stato dato, perché all'INPS mi dicono che noi non abbiamo nessun tipo di sostegno. Cioè io non ho capito, perché si continua a parlare di questa una tantum che adesso vogliono estendere, credo dal 20 al 60%, una cosa, ma non c'è mai stata data neanche quella dal 20%. Ho capito, vabbè. Adesso ci informeremo anche su questo. Giovanni da Genova, per una visione un po' più larga della cosa. Prego, Giovanni. Sì, buongiorno, Ferrara. Anche un po' eretica, lei sta per dire una cosa, diciamo, ma che sì, non... Sto per dire una cosa che è un po' eretica, perché mi comincio a stufare di tutta questa... Ogni tanto si parla dei 100 miliardi di evasione, dei 60 miliardi... che costa la pubblica amministrazione. In realtà questi soldi sono quelli che rimangono in circolazione in Italia, ma non viene in mente che questo paese si vive anche decentemente grazie a questo, perché alla fine è tutto, dal grande avvocato che fa le paracecche, non fa il nero, sino all'odontotecnico, all'idraulico, all'amministratore che si intasca i soldi, come dice... Lei dice il segreto dei ristoranti pieni, delle autostrade intasate, della vitalità economica italiana, nonostante tutto... A fare qualche cosa non trovi mai posto. Quindi lei critica le cose un po' rigorose, eccetera, che io ho detto all'inizio, sul fatto che... comincio a averne un po' le scatole piene, perché... Cioè, quei 160 miliardi non andiamo più a cercarli, dell'evasione, della corruzione... Lasciamoli lì che è meglio. Ah, ho capito. Beh, questo, accidenti, devo dire che facciamo progressi nella direzione, diciamo, dell'accettazione dello status quo. Però io non sono, diciamo, non sono pregiudizialmente contrario a che tutte le opinioni abbiano un pieno diritto di cittadinanza, anche quella che dice che la fortuna dell'economia italiana in fondo è l'evasione, il nero e anche un quantum di corruzione. Massimo dalla provincia di Verona. Sì, salve Ferrara. Lei è d'accordo con l'ascoltatore che l'ha preceduta? Guardi, io volevo fare una riflessione riguardo l'evasione fiscale. Io sono veneto, no? Sì. E leggevo sul giornale che a Treviso un controllo della Guardia di Finanza fatto in un venditore di barche, no, ha permesso di trovare 40 evasori fiscali totali. Cioè, sto facendo un ragionamento che sembra persino banale, voglio dire. Quando si ferma un signore, la Guardia di Finanza ferma un signore che ha una macchina da 100.000 euro, voglio dire, deve dimostrare perché può avere una vettura da 100.000 euro. Le ripeto, sembra persino banale Ferrara questo. E penso che nessuno dei due schieramenti, né centrodestra né centrosinistra... Beh, così come la dice lei, sembra un po' un romanzo di George Orwell, il famoso scrittore inglese che aveva descritto un mondo, diciamo, in cui i controlli hanno per effetto alla fine una specie di modello di vita totalitario, cioè che proprio i vigili debbano fischiare le macchine che costano molto e dire scusi, mi dimostri perché lei c'ha questa macchina, mi sembra un po' tanto, comunque anche questa è una opinione. Fabio da Roma sulle pensioni e poi torniamo in studio. Fabio. Sì, buongiorno a lei dottor Ferrara e ai suoi ospiti. Buongiorno. La mia questione riguarda il discorso dei cosiddetti patti intergenerazionali. Cioè io sono d'accordo che se si vive di più e se vogliamo tanto dobbiamo anche lavorare di più e più a lungo. Però dal momento che il problema pensionistico ce l'abbiamo già ora, perché l'OCSE giusto l'altro ieri ha parlato del 14% del PIL e probabilmente questa percentuale salirà anche visto che l'economia scende. E allora il patto intergenerazionale iniziamolo a mettere in pratica da subito, agendo su pensioni particolarmente alte o su persone che percepiscono 4-5 pensioni, cioè non dico togliamogliele, ma almeno iniziamo a limitarle da qui a qualche anno, insomma. per me. Bene, un altro suggerimento molto chiaro. Giannino, il professor Giavazzi dice si può fare, perché non fate? Allora io dico a me stesso, effettivamente insomma, la parificazione uomo-donna non è, no? Diritti acquisiti, si possono trovare vie poi di incentivazione. Insomma, è una riforma, tra l'altro la chiede l'Europa, quindi diventa poi anche sgradevole, diciamo, a sottoporsi alle procedure di infrazione. E poi dal punto di vista dell'idea di una società modernizzata, non lo so, lei che dice, perché non si fanno? Perché non sono poi alla fine in calendario, in agenda? È strano. Io dico che è un po' singolare che il governo, e soprattutto il ministro Brunetta, quasi ha implorato questa procedura di infrazione europea per avere la giustificazione per procedere, perché come si è capito Brunetta era dell'idea di farlo ed è stato un po' frenato. Penso che Sacconi e Tremonti abbiano invece usato un altro schema di ragionamento, abbiano detto mettiamo a verbale in agenda il fatto che c'è un modello contrattuale diverso e vediamo quali sindacati ci stanno. La CGIL non c'è stata. E dopo, l'anno successivo, cioè l'anno prossimo, mettiamo mano anche alla riforma delle pensioni e del welfare con i sindacati che ci sono stati. Si può discutere su questo. Io capisco Giavazzi che in realtà ha ragione dal punto di vista strutturale. Lo schema politico del governo è stato questo. Ecco, però sentiamo, questo è interessante, la riforma del modello contrattuale c'è stata sotto questo governo con gli auspici di Confindustria e di una parte dei sindacati. Lei, professor Giavazzi, non pensa che questo sia per esempio un fatto strutturale importante che avrà influenza nei prossimi anni anche sui caratteri della ripresa dopo la crisi? Certo, c'è stato un accordo che ha migliorato alcuni aspetti. Io continuo a pensare che in momenti straordinari si fanno cose straordinarie, cioè lì lo statuto dei lavoratori va riscritto da zero, cominciare dall'articolo 18, ma non solo dall'articolo 18, quindi anche qui questa volta sui contratti sono stati fatti gli aggiustamenti al margine, tutti giusti, ma sempre al margine, cioè il cuore del problema non l'abbiamo risolto. Se non lo risolviamo in questi momenti terribili, usciti dalla crisi, certo non ci sarà la forza per risolverlo. Rampini, una piccola parentesi sul debito pubblico americano e sui cinesi. Come sta andando lì? Siccome stiamo parlando di un PIL meno 5 in un grande paese europeo come l'Italia e di dati tutto sommato piuttosto pessimistici, malgrado i germogli di ripresa, la produzione ha smesso di calare, eccetera. Ma dal punto di vista visto da Pechino, diciamo, ecco, la crisi internazionale, come cosa promette? Visto da Pechino l'orizzonte è decisamente più roseo, visto che la Cina non è mai entrata tecnicamente in recessione, ha avuto un rallentamento sensibile della crescita, è passata da una crescita quasi del 14% a fine 2007, è dimezzata, quest'anno la crescita sarà però sempre 7,5% di aumento del PIL, quindi non si può certo definire una recessione. La sensazione che abbia funzionato la maxi manovra di spesa pubblica, di investimenti pubblici varata dal governo cinese già nel novembre scorso, che questo sia stato un volano potente per rilanciare la crescita, quindi la Cina se la sta cavando piuttosto bene. Addirittura io prevedo che quando usciremo tutti da questa crisi scopriremo di vivere in un mondo dove i rapporti di forza sono ulteriormente modificati in favore dei cinesi. Quindi una ripresa con gli occhi a mandorla. Professor Giavazzi, andiamo verso la conclusione della trasmissione. Io ho riflettuto alla telefonata di prima, di quell'ascoltatore che diceva ma andiamo, basta di inseguire tutti i miti della lotta, la corruzione, delle riforme, di struttura, la pubblica amministrazione, levare il nero, levare l'evasione fiscale, sono tutte stupidaggini. Guardate alla realtà dell'economia italiana, che è vitale, che si manifesta in un'abbondanza di consumi, ristoranti pieni, autostrade intasate, eccetera, eccetera, eccetera. Sono stufo di tutte queste giaculatorie. Ora, un punto importante è questo, effettivamente. Lo abbiamo visto, per esempio, la differenza di comportamento del sistema bancario italiano, meno internazionalizzato, meno in sintonia con i mezzi, gli strumenti di una certa globalizzazione finanziaria, meno in una situazione meno critica di quello inglese, di quello americano. Allora, l'Italia è fatta in un certo modo. La domanda è, le famose ricette, diciamo, di una cultura economica moderna legata al grande ciclo liberista degli ultimi 30 anni non sono un po' astratte per un paese come l'Italia? Se poi facessimo davvero tutte queste riforme, non ci ritroveremmo con uno squilibrio di altro genere, di diverso tipo? Non è meglio tenersi in fondo questo fatto che siamo un po', diciamo, un po' tanto mantenuti a spese dell'erario, poi dopo l'erario non lo rimpinguiamo, però sappiamo come investire la ricchezza sottratta all'erario dall'evasione e poi i consumi. Non so, ha capito che voglio dire? Non c'è un conflitto tra la razionalità di quello che lei dice e la realtà di questo paese? Allora, capisco che lei dice le cose affascinanti, ma non sono d'accordo, mi faccio spiegare perché. Primo, forse per la cosa più di fondo, che questo paese non cresce. Noi alla fine degli anni 80, inizio anni 90, avevamo un reddito pro capite che aveva raggiunto l'80% di quello del paese più ricco al mondo, che sono gli Stati Uniti. In 15 anni abbiamo perso 10 punti, quindi qualcosa non va, perché poi quando si dice che i salari sono bassi, le pensioni sono basse, questa è solo la manifestazione in un particolare settore del fatto che il reddito medio nel paese non cresce ed è basso. Allora, bisogna chiedersi che cosa fa sì che il reddito sia basso. Allora, prima cosa, questo credo che Oscar Giannino sia d'accordo, abbiamo un'imposizione troppo elevata. Ovviamente all'imposizione troppo elevata io non credo che bisogna far fronte lasciando che la gente vada, perché la cultura in cui evadi le tasse è poi la stessa per cui lasci l'auto in mezzo alla strada e blocchi il tram, per cui non pulisci dove passi. Insomma, bisogna abbassare le aliquote, allora avremo una tassazione che è quella che i cittadini cercano di farsi da solo, ma facendosela da solo un fracco di guai. E poi bisogna rompere, qui parliamo delle liberalizzazioni, alcuni gruppi di interessi, i quali secondo me spesso usano questo argomento, ma noi siamo diversi, il paese è fatto diverso, in realtà per difendere i loro interessi. Dal punto di partenza di questo paese non cresce, ed il motivo per cui abbiamo salari bassi, pensioni basse, è perché non cresciamo. E Rampini, nella grande crescita cinese e asiatica in generale, non solo cinese, quanto è importante la componente virgolette all'italiana, chiuse le virgolette, cioè quanto è importante l'elemento un po' selvaggio, insomma, l'arrangiarsi, l'individualizzarsi delle soluzioni? Sicuramente molto importante, si può addirittura sostenere che il segreto del miracolo cinese, un miracolo che ormai dura da 30 anni, da quando Deng Xiaoping abbandonò il comunismo e traghettò il paese verso l'economia di mercato, è stato proprio di liberare le straordinarie energie, la vitalità che c'è dentro questa società civile, il talento imprenditoriale antichissimo dei cinesi, che si è stato sprigionato naturalmente anche in modi abbastanza selvaggi, perché qui esiste tanta evasione, esiste tanta illegalità, esiste la corruzione in Cina, dove però c'è una differenza interessante rispetto ad altri paesi ad alta corruzione come l'Italia o altri paesi emergenti dove c'è molta corruzione. È che in Cina il meccanismo della corruzione non impedisce che le cose si facciano, cioè una parte della spesa pubblica sicuramente sparisce appropriata dalla nomenclatura, tuttavia questa è una nomenclatura che fa le autostrade, i porti, gli aeroporti, le centrali nucleari e le fa molto molto velocemente e le fa anche di buona qualità, cioè la modernizzazione infrastrutturale della Cina è spettacolare e quindi è una corruzione che in qualche modo organica serve a oliare, a ungere le ruote del sistema, però è un sistema che produce risultati. Questa è l'impressione che invece in Italia non sia più così. E certo, questa è una differenza di fondo. Mi piacerebbe sentire anche il parere di Giannino su questa questione, che è originata, ripeto, non da una astratta mia, ma da una telefonata per la prima volta. A me non è successo in tanti anni poi di televisione e adesso in questi mesi di radio di avere un responso così netto, ma piantiamola era proprio una cosa, un messaggio alla Corte dei Conti, dice, ma che state lì a dare appresso alla corruzione, 60 miliardi, all'evasione, 100 miliardi, non è lì la soluzione dei nostri problemi. Insomma, io che ogni tanto mi picco di insegnare cinismo, non so fino a che punto questo sia vero, mi sono trovato di fronte a uno che mi ha dato una lezione di cinismo. Ma guardi, senta, io ho fatto 16 assemblee territoriali di Confindustria in questi ultimi 2 mesi, nel nord soprattutto, e quell'ascoltatore l'ho trovato straordinariamente maggioritario negli interventi di imprenditori, molti disperati che ho sentito. La gente dice: quest'anno adesso il governo ci dà le agevolazioni fiscali sugli utili da reinvestire, ma quest'anno chi fa utili? Quest'anno noi saremo costretti a fare più evasiva del solito per sopravvivere. Adesso potrà non piacerci Ferrara, però quella voce è una voce molto presente. Io sono d'accordo con Giavazzi, è un paese che fa così, è un paese che non rispetta le leggi, però il problema è che quando avremo politici capaci di abbattere le imposizioni molto elevate, troppo elevate, sul lavoro e sull'impresa, allora secondo me daremo una risposta più concreta a questi che si difendono con l'evasione. Certo, bisogna anche tagliare la spesa, questa è la difficoltà, perché poi sinistra e destra, quando si tratta di tagliare la spesa, iniziano a tentennare. Però questa io credo che sia la riforma più radicale di cui avremo bisogno oggi, cioè ci sono 50-70 miliardi di euro di spesa pubblica ogni anno che andrebbero tagliati, e allora si potrebbero abbassare le aliquote e crescere tutti meglio, altrimenti saremo un po', come dice Lampini, una Cina che non rispetta le leggi ma che non cresce a differenza della Cina. Questa è la vera riforma radicale, più radicale anche del welfare. So su questo Giavazzi la pensa diversamente, ma io penso che le aliquote a fronte dell'evasione, aliquote basse, non lotta etica morale, sia la risposta vera di cui abbiamo bisogno. Comunque, professor Giavazzi, come ha sentito dalla testimonianza pur breve ma ficcante di Oscar Giannino, qui il problema non è solo l'orientamento del governo, di Tremonti, della classe dirigente, ci saranno ritardi culturali oppure convenienze politiche, opportunismi, insomma la politica è fatta di queste cose d'altra parte, ma tutta la politica, tutto il mondo delle professioni, dell'accademia, insomma, dovunque c'è una quantità di potere c'è una tendenza, però il punto che diceva Giannino è: ma qui c'è la borghesia imprenditoriale diffusa sul territorio che dice insomma dobbiamo cercare di evadere per non andare sotto. Certo, perché la caratteristica di questo paese è un paese in cui quasi metà di quello che il paese produce passa attraverso lo Stato, no? La spesa pubblica nelle sue varie forme raccoglie il 50% del PIL che deve essere finanziato, quindi la specificità che non ha a che fare con la destra e la sinistra è questa, per cui bisogna prima, come dice Giannino, ridurre la quota di quello che produciamo che passa attraverso l'amministrazione pubblica, un po' così si perde passando, e quindi ridurre le tasse. Se non facciamo quello non ricominceremo a crescere. Il dato è, come dire, il centro della discussione quando si parla dell'economia, eppure il dato è fragile. Tremonti rimprovera Draghi il fatto di al governatore della Banca d'Italia il fatto di dire oggi meno 5 il PIL, dice qualche mese fa diceva meno 2. Posso dire, sì, Ferraro, una prego, cosa? Posso interromperla? Prego, prego, prego. Perché c'è una cosa delle notizie di oggi che lei non ha citato che è importante. Sì. Il ministro dell'economia ieri ha criticato fortemente l'Istat perché ha detto: ma l'Istat dà i numeri sulla disoccupazione, sì, non sa neanche contarli, no? Allora, a parte che oggi l'Istat risponde e spiega come viene calcolata la tassa di disoccupazione, io trovo che sia estremamente pericoloso mettere dubbi su come vengono fatti i numeri, perché si può criticare l'Istat e si può andare tecnicamente. Mi sembra che la risposta dell'Istat oggi sia giustifichi quello che fanno, ma dire non guardate i numeri perché sono fatti male, io con il fiuto la so meglio, questo a me è molto pericoloso, soprattutto se viene da un ministro dell'economia. Sì, a me dispiace di dover fare questa polemica sui numeri, ma la faccio da tanto tempo, da prima che ci fosse Tremonti, cioè i numeri sono fragili, non riesco a capire perché, ma lei ha ragione, l'Istat va rispettato, forse Tremonti ha ceduto nel dire ma non badate ai numeri sulla disoccupazione, però è anche vero che c'è un'attitudine proprio culturale generale che non riguarda il solo Tremonti, poi alla fine riguarda tutti, e anche un po' la cultura del census, no? che è un istituto che fa più metafore che numeri, o meglio combina i numeri e le metafore, dice siamo l'economia dei coriandoli, insomma l'interpretazione postmoderna di ciò che sono i numeri, la dura oggettiva realtà dei fatti, prevale sempre sui numeri stessi nella cultura italiana. Lei che insegna alla Bocconi ma anche all'MIT ha mica capito perché? Ci sono due fatti, prima ci sono i numeri che devono essere costruiti bene e quindi una volta costruiti bene devono essere tenuti in conto, e poi c'è l'interpretazione che è una cosa diversa, sulla quale possiamo avere teorie diverse, eccetera. Dov'è che la cosa è pericolosa? È pericolosa quando si mettono in dubbio i numeri perché i numeri non corrispondono all'interpretazione che uno ha già in testa. Certo, questo è pericoloso. Ed è la caratteristica fondamentale spesso del nostro dibattito economico-finanziario. Grazie professor Giavazzi, grazie a Federico Rampini, a Oscar Giannino. Grazie. grazie a tutti voi per questi mesi deliziosi di chiacchiere con l'elefante. In redazione Franca Fossati e Gloria Guerrera, in regia Paolo Corleoni, Giorgio Mattè, linea al giornale radio, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Da lunedì c'è Oscar Giannino, la versione di Oscar. Un bacio.